te ne hai chiesto quanto puoi vedere in basso prima di scavare. Magari tutto sembra regolare a chi ti guarda di sfuggita mantenendo il proprio passo. Mantengono gli orari, le abitudini, gli affari quotidiani e si distendono fra film senza skills e squalli di giornali. Poi ti parlano di sentimenti umani, dal cuore che hanno in petto al tatto sembra un sasso. E ti dovresti rapportare, io penso che piuttosto mi tengo tutto addosso, portando il mio fardello sulle spalle anche se il peso che sostengo mi impedisce di scalare. Con la vanga in mano mi ritrovo a continuare un percorso personale che almeno mi consente di cantare, non calcificare, il cuore tachicardico e finché ne sento il battito so che nonostante tutta l'ansia, l'asma e lo spasmo muscolare di essere tassi che si plasma informandosi dell'anima che radia un calore ancora vitale. Anche se l'aria in cui respiro è rarefatta e rischio di disfatta è alto perché qua si fa fatica a respirare.